Dino e Keyabina, e dato che è tutto sconnesso, ne approfitto per dedicare questo pezzo ai miei grandi amici, sulle mani, Dirty Finger, ok? Io faccio rap, già faccio rap da un po' di anni, e se hai qualcosa da dire a riguardo, non ci pensare due volte, fallo adesso che non ho bisogno. 12 anni fa, rimavo in cameretta, bassa qualità, registrata su cassetta. 12 anni fa, con i Malas e gli Intro, era tutta novità, una realtà che ho ridipinto qua. Rappo da 12 anni già, la Riviera forse fa bene a non immischiarsi e sa bene come fare scarti, e ancora meglio sa dimenticarsi degli scarsi, rialzarsi e non leccarsi le chiappe a vicenda. Ho fatto i bagagli viaggiando su una strada incerta, la mente incerta, la mia porta aperta, altrimenti porta chiusa e sperla. Ti caccio una perla, sono l'uomo dei jingle, ti faccio uno stacchetto per le notti single. Fra tutte quelle che mi son concesso, sono ricasato, ubriaco e molesto. È tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. È tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. È tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. È tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. Sono arrivato per portare il mio suono, mi sono presentato proprio come un bravo uomo. In 10 minuti ho messo subito zizzania contro un meridionale che votava Padania. Allora Bina rappresenta l'Italia, in piedi sopra l'ultimo carretto che traina. A Natale mangi il Maina, a Pasqua la Kinder, in casa io in strada coi raga del Dirty Finger. Bella Saro il Fo, bella da P, bella L e Psilo, bella Gianni allo Scino, bella Beccio Eroi, bella Teo, Vin e Pame. Raga ci siamo tutti, ne butto un quintale, hey! E non mi chiedere quante volte è successo, io di chiedermelo smesso, se, se vuoi per chiedere perché facciamo questo, non lo so, almeno adesso capisci che è tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. È tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. È tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. È tutto veramente sconnesso, no, non ce la faccio più. Parlando fuori adesso, sulle mani, Dirty Finger, è la Riviera, è il rap, ora mai più, bella raga, ho già detto bene che Yebina, ok, adesso caccio fuori due nomi, Saro il Fo, fuori il 24 aprile con Entourage, scaricate gratis su anno.it, ok, bella raga, io sono bene che Yebina e non ci faccio la paga, mi impappino, questo rap è suicidio e ringrazio tutti, specie chi mi avvicino, Dirty Finger, sulle mani, facce bianche come meringhe, ma stacca dai, basta, dai, leva. Gea! Yeah!